Buongiorno Nicoletta, piacere di sentirla. Anche per me, grazie Cristiano. A me non mi saluta, Cristiano? Non mi ricordo il suo nome. Bello. Deborah. Non importa. Cristiano. Deborah, saluto anche lei molto volentieri. Quindi io in questo momento sono un pochino più intelligente di Deborah Rosciani. E con questa, così. E con questa. Libero di nome di fatto? Sì. No, libero di nome, di fatto sono coniugato. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, tanta umidità a Milano, le temperature stanno per abbassarsi. Cara Nicoletta, vedrai che tra poco arriverà l'influenza, o come le chiami tu, le sindromi parainfluenzali, e io prevedo già qualche assenza dal lavoro. Ossa rotte, febbriciattola, naso che cola, gola in fiamme. C'è chi resiste, però Deborah tiene duro e va al lavoro comunque. E contagia tutti. Vabbè, allora, c'è chi preferisce invece fermarsi qualche giorno per evitare complicanze. E mette in difficoltà i colleghi per la sua mancanza. Vogliamo parlarne? Sì, allora vogliamo dire che non te ne va bene né una né l'altra. Diciamo in modo più morbido che sono due scuole di pensiero. E allora 800 24 00 24, noi cerchiamo proprio stamattina due testimonial. Uno per rappresentare chi ai primi segnali si mette subito in malattia. Della serie prevenire è meglio che curare, e si prende i famosi giorni di cautela. E un altro, come dice la nonna di Marco Lombardo, è un altro testimonial per dare voce a chi resiste e va lavorare anche se un po' conciato e magari punta il dito contro chi sta male e sta a casa, come qualche volta facciamo io e Nicoletta. Eccole là. In linea con noi abbiamo il dottor Carlo Gargiulo, che essendo medico di famiglia conosce bene il problema, o meglio la situazione. Buongiorno dottor Gargiulo, bentornato, sono contenta. Buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori. Allora sì, la situazione è esattamente quella che avete descritto, e in mezzo c'è il medico di famiglia che deve riuscire a governare chi vuole andare a tutti i costi al lavoro infettando chiunque nel suo ufficio, ma soprattutto nuocendo alla sua salute, e chi invece starebbe a casa anche molto a lungo perché magari approfitta di questa influenza o di questa febbriciattola per fare qualche giorno di riposo in tranquillità. In realtà poi noi dobbiamo governare queste situazioni e certificare, cioè riuscire dopo la visita e dopo aver sentito il nostro paziente, riuscire a dire al suo datore di lavoro di quanti giorni può aver bisogno per stare in sicurezza lui e i suoi colleghi. E a proposito di chi ha bisogno di mettersi in malattia, possiamo chiedere ai nostri ascoltatori: vi è mai capitato di ricevere una visita fiscale perché qualcuno ha messo in dubbio la vostra assenza per malattia dal lavoro? Va detto ormai che di visite fiscali non ce ne sono più tante, anzi da poche settimane sono state completamente azzerate, l'INPS le ha bloccate, sono le aziende a scegliere se farle fare o meno. Torneremo a spiegarvi il perché e a capire quali sono le conseguenze di questa decisione. Ma siate sinceri, c'è qualcuno dei vostri colleghi a cui una bella visita fiscale farebbe tanto bene? Un furbetto, insomma, del certificato medico? Se proprio oggi siete a casa ammalati, se avete chiesto un giorno di malattia, se volete raccontarci di quella volta che il medico fiscale è venuto a trovare proprio voi, chiamateci 800 24 00 24. Sì, raccontateci, diteci come state e come è andata anche al 349 238 6666. E adesso si parte. Essere e benessere. Cosa ci fai? Scusa, posso salire? No, io non credo proprio che sia una buona idea. Perché ho un terribile raffreddore. Lo senti o no? Sì. Certo che lo senti. Senti, continuo a starnutire e non sono granché sveglia. Sto prendendo echinacea e vitamina C e dormo praticamente 24 ore al giorno e ho pure la febbre. Puntuale come ogni anno arriva l'influenza e le sue sorelle, che sono le forme parainfluenzali. Dottor Gargiulo, lei cosa prevede? Perché secondo i medici della City il grado di copertura vaccinale riscontrato negli ultimi anni anche tra le categorie dei soggetti a rischio, come gli over 65, si è tradotto in almeno 90.000 casi in più di influenza ogni anno. Lei però, che dice? Io credo di averli visti tutti, no? In realtà non è così. Effettivamente c'è un calo in quella che è la partecipazione alla vaccinazione antinfluenzale. Devo dire che negli ultimi 2 anni, l'anno scorso, abbiamo avuto qualche problema nei vaccini che sembravano non essere perfettamente in regola, poi invece si è rivelato essere assolutamente un dato derivato dall'attenzione che facciamo ai controlli di questi vaccini. Recentemente avevamo avuto la pandemia, insomma c'è stato un po' di calo di attenzione dei nostri pazienti, bisogna faticare un po' di più per convincerli e portarli alla vaccinazione nei nostri studi, però non dobbiamo dimenticare che la vaccinazione è l'unico modo che abbiamo per prevenire le complicanze dell'influenza. Anche se c'è già qualche ascoltatore che in realtà il tema del vaccino lo contesta immediatamente, magari avremo modo di parlarne. Avremo modo nel corso della trasmissione, intorno alle 12:15 parleremo, naturalmente il dottor Gargiulo resterà con noi, ma parleremo anche di rimedi naturali per rinforzare il nostro sistema immunitario con il dottor Temporin. Per chi non vuole vaccinarsi può comunque scegliere questa strada e prevenire l'influenza in altro modo. Dottor Gargiulo, ma per chi in questi giorni sente già qualche sintomo e teme di covare l'influenza, perché si dice così, quali indicazioni possiamo dare per evitare che si debba mettere a letto completamente, magari chi è insomma la classica persona che vuole fare, come dice mia mamma, l'influenza in piedi? Ma dunque, l'influenza in piedi è secondo me un errore, perché in realtà l'organismo deve combattere già il virus che l'ha infettato e quindi chiaramente chiedergli un impegno ulteriore, che è quello di attendere alle normali occupazioni, non è assolutamente da consigliare. Sì. Possiamo però evitare di metterci a letto riducendo la nostra attività. Allora, se facciamo un'attività fisica, tipo un'attività sportiva, non la pratichiamo in quei giorni in cui ci sentiamo influenzati, come si dice normalmente, e riduciamo anche, se possibile, tutti gli impegni, magari extra lavorativi, perché sul lavoro non possiamo mancare o dobbiamo avere un po' di attenzione. Il problema più importante è che se abbiamo però tosse, raffreddore, quindi se abbiamo degli starnuti e la possibilità di emettere questo virus all'interno dell'ambiente, dell'aria, dell'ambiente che ci circonda, è chiaro che quello dovremmo assolutamente evitarlo, soprattutto negli uffici, quando fa freddo, riscaldamento a ventilazione, finestre chiuse, è chiaro che i virus trovano un ambiente estremamente favorevole. E non dimentichiamo che una gocciolina di saliva emessa con uno starnuto viaggia a circa 150 km l'ora e può raggiungere i 5 metri di distanza. Mi viene in mente Renzo Tramaglino, dagli all'untore, non so, così, se ho esagerato un po', però effettivamente magari anche un piccolo raffreddore che a noi può apparire banale, contagiamo tutti quanti. Senza quindi accorgerci. Se andate al lavoro e siete un po' raffreddati, lavatevi le mani, una volta di più, meglio una volta in più che una volta in meno. Brava Nicoletta. Dottor Gargiulo, il medico di famiglia, però, è il nostro primo interlocutore. No? Se siamo soprattutto lavoratori dipendenti, dobbiamo andare da lui, e da quando la certificazione è telematica dobbiamo andarci in fretta per evitare tutti i disguidi, esatto, problemi. Perché l'azienda lo vuole subito questo certificato. Allora, diciamo subito una cosa, ormai l'azienda non ha più il diritto di ricevere una certificazione sotto forma cartacea, ma soltanto un numero di protocollo, che è il numero con cui noi riceviamo dall'INPS quando trasmettiamo il certificato. Sì. La certificazione telematica ha molto semplificato tutte le incombenze per il lavoratore e anche tutto sommato per il datore di lavoro. Il lavoratore comunica questo numero, quindi non deve più fare raccomandate, non deve più spedire cartaceo, il datore di lavoro può controllare con questo numero sul sito INPS i giorni di malattia e verificare che il lavoratore abbia detto il vero. La certificazione cartacea rimane al lavoratore soltanto perché c'è una diagnosi sopra che è soltanto riservata a lui ed eventualmente al medico fiscale per problemi di privacy. Sì. Questa diagnosi è quella che serve in caso di visita fiscale, perché il collega che va a verificare che la malattia sia realmente quella e i giorni siano quelli che ha prescritto il medico di famiglia, diciamo, legga questa diagnosi e possa orientarsi. Possiamo leggere un po' di messaggi a proposito di leggere la diagnosi. Il dottor Gargiulo legge le diagnosi, ecco, le fa soprattutto. Esatto, e noi leggiamo. Legge, fa i referti. Ma no, io devo subito leggere questo di Marco da Ferrara, perché dice: buongiorno, no, mie regine, sono il vostro fante di picche, che sai che ci scrive sempre, un po' contesta i nostri temi, un po' ci viene incontro. Però ci ama. Però ci ama profondamente. Tre anni fa buon gustaio, Marco. Tre anni fa, ecco qua, ero bloccato a letto con una sciatalgia l'agenzia. Dopo 30 giorni mi è arrivata la visita fiscale, ma del resto è automatica quando si superano i 30 giorni di assenza dal lavoro. Invece un altro ascoltatore, Eddie di Mirandola, ci dice: io sono il terzo testimonial, visto che ne abbiamo invitati due tipi, cioè rappresento la categoria degli artigiani, quelli che per pagare tutte le tasse, per rispettare tutti gli impegni presi, non possono permettersi il lusso di fermarsi. Allora mi vaccino, tanta tanta vitamina C, e che Dio ce la mandi buona. Eddie, va bene, fa bene Eddie, dottor Gargiulo, a prendere tanta tanta vitamina C? Ma tanta, un po' troppo, vero? Esatto, perché in realtà anche la vitamina C, che potenzia le nostre difese immunitarie, quindi ci aiuta anche come antiossidante a migliorare le difese verso i virus, in realtà non deve essere presa in quantità eccessive, perché può disturbare lo stomaco e può disturbare l'intero organismo. Un grammo al giorno è il dosaggio. Leva il medico di torno? Dottor, e il vaccino anche, dottor Gargiulo, ma noi non vogliamo levarla di torno, vogliamo che lei resti con noi, e lo farà fino alle 12.30 per darci consigli e indicazioni all'800 24 00 24. Oggi vi abbiamo chiesto di schierarvi, siete di quelli che tengono duro, vanno a lavorare lo stesso e quindi contagiano, rischiano di contagiare anche gli altri, oppure di quelli che prendono i giorni di cautela. E vogliamo parlare anche di quella volta in cui una visita fiscale vi è arrivata tra capo e collo, e sembra che non facciano altro che fare visite fiscali. Deborah, cosa mi dici? Perché mi hai detto che non vengono più? Senti qua, alla mia compagna, con una spalla rotta, scomposta, dopo una settimana a hanno mandato di capo e collo la visita fiscale. Mi sembrano soldi spesi male, scrive Luciano. Poi, sono un medico ospedaliero, anche i medici. Due anni fa feci un giorno di malattia per influenza, alle 18, patapam, venne il medico fiscale. Che spreco, ci scrive Anto. Ma qua bisogna raccontare, lo faremo tra qualche istante, che in realtà questa situazione sta cambiando. E poi chiaramente non pensate che sia un abuso, una prevaricazione da parte del datore di lavoro. Qualche volta questi controlli vanno fatti, in passati venivano fatte anche un po' a campione, così casualmente, e poi bisogna vedere anche dietro a tante storie che cosa si cela. Andiamo intanto subito, intanto voi schieratevi 800 24 00 24 e raccontateci anche se da voi in ufficio c'è quel collega che per un non nulla sta a casa, sempre magari in quei giorni vicino al ponte, al weekend si ammala sempre. Ma tu sei un po' maliziosa, allora. E allora a lui mandereste volentieri una visita fiscale, ammesso che i medici fiscali siano ancora in circolazione, ancora operativi? Claudio, buongiorno, ci chiama da Genova all'800 24 00 24. Claudio. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Lei fa parte, buongiorno, mi pare, della nostra corrente qua. Sì. Io sono della corrente di quelli che vanno sempre al lavoro. Ho 47 anni e dalle superiori, anche se non è un lavoro in avanti, ho fatto un giorno e mezzo di assenza, diciamo. Un giorno e mezzo alle superiori per la vita militare. Non ho mai fatto un giorno d'assenza da scuola. Al lavoro non mi sono mai assentato un giorno. Vado a scuola, a lavoro anche con l'influenza, con la febbre, diciamo. Senta Claudio, posso farle una proposta indecente? Prego. Allora, venga qua un giorno, conduce la trasmissione insieme me e a Deborah. Io pensavo potessimo prenderci un giorno di raffreddore a casa. E prova l'ebbrezza di stare a casa un giorno. Dottor Gargiulo, possiamo? Potrebbe essere una buona terapia anche per Claudio? Anche lo stacanovista un po' indispettisce i colleghi, adesso parliamoci chiaro. Potrebbe essere una buona terapia, però veramente qui lo dico e qui lo nego, anche perché se volesse il certificato per stare un giorno in trasmissione con voi commetterebbe ovviamente un reato, lui e il medico, quindi mai, non si può fare. Non si può fare, però Claudio la invitiamo. Esatto, a prendersi un giorno di ferie. Qual è il suo segreto, Claudio, per non ammalarsi mai? Me lo dica un po'. Sicuramente i geni un po' aiutano, diciamo, non è che non mi ammalo mai, ogni tanto qualcosa me la prendo, diciamo. Però mi ricordo ad esempio alle superiori, quando la varicella dimezzò la classe, io non me ne ero manco accorto, poi ho scoperto che l'ho fatta in piedi, come si dice, c'avevo un paio di bollicine. Quindi sicuramente, diciamo, una tempra molto resistente, e quindi insomma non è uno di quegli un po' anche ipocondriaci, no, che basta un microscopico segnale e track, si chiudono in casa, si mettono a letto, si imbottiscono di aspirina e stanno là. Claudio, sarà anche il pesto di Genova, no? Delle belle trenette al pesto, che il basilico l'antibiotico in naturale, ne abbiamo scoperto un altro. Grazie Claudio, buona giornata. Fabio? Sì, guarda, ti faccio sentire Fabio, Nicoletta, perché qua c'è questo gruppo di Livorno che secondo me sono dei pazzi, che hanno scovato un modo per, come dire, prevenire tutti i malanni invernali, non hanno paura né delle polmoniti, né delle broncopolmoniti, né delle visite dei medici fiscali. Ti faccio raccontare quello che combinano. Fabio da Livorno, buongiorno. Sì, salve, ciao Deborah, ciao Nicoletta. Ciao Fabio. Sì, in realtà noi siamo della provincia di Livorno, Rosignano, e ormai da 10 anni facciamo questa cosa che sembra un po' da pazzi, ma in realtà lo è molto meno, e ci troviamo tutti i weekend d'inverno ormai da 10 anni in questo golfo che è vicino Castiglioncello e facciamo una nuotata in mare. Certo, ma con 2 gradi sotto Fabio, zero mi sembra naturale. Ma sono ammesse anche mute un po' leggere o andate nudi e crudi? Ma sono pieni di fotografie su Facebook, sono tutti in un costume normalissimo, ma sono dei pazzi, guarda. Allora, se mi fa dire, Deborah, fondamentalmente diciamo che ognuno se la deve sentire, quindi se c'è la persona che dice ma io entro subito, esco, metto la muta, è giusto che faccia così. Diciamo la maggior parte di noi con lo slip rosso e la cuffietta rossa ci facciamo questa nuotata senza nulla. No, adesso Fabio, lei mi deve dire, dopo questa nuotata non c'è nessuno che si ammala tra di voi? Tutti a posto, tutti tranquilli? Ne manca un raffreddore. Diciamo questo, che quando si esce in particolare siamo desensibilizzati, quindi non senti proprio nulla, ci può essere anche la tramontana, il freddo, non senti nulla. Poi successivamente riprendi la sensibilità del corpo e ti fai una bella doccia bollente e stai bene. Io dico la verità, siccome faccio nuoto agonistico, sempre in piscina, ho sempre sofferto di mal di gola, orecchio, eccetera. Io ho 10 anni che, come me molti altri, abbiamo questa sensazione di star calo. Meglio. Sì, del benissimo. Freddo lo sentiamo. Senta, meglio. Dottor Gargiulo, che dice? Fanno bene? Ci proviamo anche io e lei, dottor Gargiulo? Andiamo. Non vedo l'ora di venirvi a vedere, sì. Con alcune precauzioni si può anche fare. Indubbiamente bisogna stare attenti perché l'esposizione al freddo di per sé, cioè l'immersione in acqua fredda, non è quello che può creare il problema. È che poi magari uscendo basta un colpo di vento, un colpo d'aria e le difese meccaniche dei nostri polmoni tendono un po' a cedere. Il nostro amico poi parlava di mal d'orecchio, mal di gola. Beh, ecco, in quei casi non lo consiglierei onestamente. Certo, poi come sempre la medicina non è una scienza esatta e se loro stanno bene e non hanno avuto problemi di nessun tipo continuino a farlo. Magari se qualcuno volesse iniziarlo prima di cominciare facciamo una bella visita. Allora, io leggo Fabio, quasi quasi guardi, vengo. Fabio, guarda, devi fare la visita allora. Sì, vado a farmi fare una visita dal dottor Gargiulo. Ecco, poi vado a Fabio e si fa la nuotata con gli amici di Rosignano, tu ma mi ti regali devi, ti devi mettere rosso, il costumino rosso perché sennò non è efficace. Dai, Fabio, è fatta, allora, vengo. Grazie. Perfetto. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Fabio. No, allora, io invece voglio leggere il messaggio di Elio da Brescia che, a cui gli succede quello che capita a me, perché durante l'anno lui dice non si ammala mai, salvo in 2 occasioni, ad agosto con le vacanze estive e a Natale con le vacanze invernali. Dottor Gargiulo, questa febbre in non è strano, non è strano, perché in realtà voi siete persone come anche io, diciamo da questo punto di vista, che mentre lavoriamo abbiamo sicuramente un alto livello di stress positivo, di tensione emotiva che ci tiene sempre comunque, come si dice, sul pezzo, perché sappiamo che su noi e soltanto noi possiamo fare questo tipo di lavoro, non possiamo essere sostituiti, non abbiamo la possibilità di dare passare il testimone a qualcun altro, e questo ci sostiene parecchio, però poi arriva il momento in cui paghiamo il conto, allora abbassando, calmandoci, abbassando quello che è la tensione emotiva e quindi anche un po' le difese immunitarie, più facilmente siamo soggetti a questi disturbi, a queste malattie da raffreddamento. Voglio leggervi 2 messaggi. Il primo è un consiglio che ci manda Dario per evitare di ammalarci, che da anni nella colazione quotidiana inserisce un kiwi. Sappiamo che questo frutto è ricco di vitamina C e da allora neanche un raffreddore. Mentre, a proposito delle persone che non si fermano mai e vanno al lavoro anche se sono ammalate, un ascoltatore ci scrive: vorrei vedere che lavoro fanno quelli che con la febbre o la bronchite vanno al lavoro. Io lavoro in fabbrica e quando sto male è duro. cura, certo. Quindi me ne sto a casa e non vedo perché devo fare la martire. Posso questo dire, è il messaggio no. di Roberta. C'è chi con 37,2 di febbre come la sottoscritta non si regge in piedi, è chiaro che a 38 io non ci penserei mai. Perché così. Tu sei alta. Sono alta ma sono un tantino un po' cagionevole in questi frangenti, però per fortuna la febbre non ce l'ho mai. Voglio solo anticipare, Nicoletta, se sei d'accordo, il tema di cui ci occuperemo dopo i mercati, perché dobbiamo appunto affrontare la questione dei medici fiscali che abbiamo sollevato poco fa, ma che soprattutto ha sollevato un grande polverone prima dell'estate e aveva suscitato un grande interesse fra tutti i lavoratori. Avevamo fatto una puntata molto avvincente in occasione appunto di questa notizia. Non era l'influenza di maggio, ma un'altra problematica, perché l'INPS a fine aprile ha disposto la temporanea, e sottolineiamo il termine temporanea, sospensione delle procedure riguardanti le visite mediche di controllo, perché l'INPS vuole risparmiare almeno 500 milioni di euro e quindi con questo blocco, diciamo, delle visite fiscali. È una buona idea, no? Un istituto di previdenza che vuole risparmiare, però a risparmiare c'è stato un altro problema che è stato chiaramente creato da questa decisione. 1400 medici fiscali che da un giorno all'altro si sono trovati senza lavoro, liberi professionisti, quindi l'INPS non si sentiva in nessun modo vincolata, però di fatto c'è questo problema. E noi tra poco ne parliamo con un medico fiscale, la possiamo già salutare? Sì, dai. Piera, medico fiscale di Ascoli Piceno, che ha fondato l'associazione ANMEFI, l'Associazione Nazionale dei Medici Fiscali. Buongiorno, dottoressa. Sì, buongiorno. Tengo a precisare che non è che l'ho fondata sono dei soci fondatori, io sono una rappresentante del direttivo. Va bene, rappresentante. Dottoressa, sentiamo i mercati finanziari e poi veniamo a lei, a tra poco. Cuore e denari. L'ho preso forte. Questi giorni bisogna fare molta attenzione. I cambiamenti di temperatura. Scusi, potrebbe fare anche un po' d'attenzione, no? Scusi, tanto abbia pazienza. Scusi tanto, ci metti il fazzoletto davanti alla bocca e poi lo togli al momento del caduto. Non sulla bocca, sono stoccate sulla bocca. Ma c'è una goccia. Scusi. Ma qua ci sta, pulisce la mela. A me mi prende qua. Vabbè, a me mi ha preso un occhio, scusi. sono sempre magnifici. Totò ci e serve Aldo per Fabrizi tutti i film, anche. Esatto, è vero. Tempi duri, arrivano i malanni di stagione, le famose malattie del raffreddamento che si aggiungono alle sempreverdi cefalee, mal di schiena, disturbi digestivi, spossatezza. Stiamo parlando dei piccoli disturbi che vengono a trovarci, ma che si risolvono nel giro di pochi giorni. C'è chi questi giorni preferisce passarli a letto, al calduccio, e che invece cerca di scrollarseli di dosso continuando a lavorare. Della serie, chi si ferma è per naturalmente non stiamo affrontando, dottor Gargiulo, il tema delle malattie croniche, ma solamente di quei disturbi che vengono a trovarci e che ci fanno venire in mente che è tempo di fermarci e che, per i quali il medico di famiglia può darci 2 o 3 giorni. Arrivano molti messaggi, arrivano tante telefonate all'800 24 00 24, perché chi si ferma sta a casa può ricevere anche una visita fiscale. O devo passare a... Devi parlare al passato. Perché da quanto pare appunto da ottobre queste visite fiscali non ci sono più e naturalmente una categoria non è molto contenta di quello che è successo. Forse però magari gli ascoltatori sono contenti. Vabbè, basta che non se ne approfittino stando di più a casa, però poi c'è anche un altro lato della medaglia. Addirittura a quanto pare c'è qualche azienda che invita qualche lavoratore a mettersi in malattia utilizzando un po' questo stratagemma, comprensibilmente posso anche dire, come ammortizzatore sociale. Insomma, una questione che ha diverse sfaccettature. C'è qualche messaggio carino, vero? Allora, ci sono messaggi, ci sono anche telefonate. Diamo la parola ad Antonio da Reggio Emilia. Volentieri, che ci sta così aspettando. Poi andiamo ai nostri medici fiscali e ci facciamo raccontare bene lo stato dell'arte. Antonio. Buongiorno. Antonio? Pronto? Sì? Sì. Eccoci qua. Pronto? Antonio, sì. La sentiamo benissimo. Bene. E allora? Il problema è questo. Già pagato l'appartamento al mare. Perché siccome l'avrei inaugurato io costava la metà del prezzo normale. Due giorni prima mi blocco con la schiena. A questo punto cosa faccio? Per non perdere i soldi decidiamo di pagare ugualmente. Avviso la ditta se posso fare questa manovra, un sindaco. È partito Antonio, Antonio. Niente, facciamo fatica a sentirlo da Reggio Emilia. Comunque, da quello che capisco, gli è arrivata la visita fiscale e non so bene che cosa gli è stato contestato, ovviamente, però insomma già stava partendo per le vacanze, questi 2 giorni poteva anche tenerseli come ferie piuttosto che farli passare come malattia. Non lo so, io magari faccio un commento inappropriato. Non lo so, sentiamo i nostri medici fiscali che ne sentiamoli, pensano. Sentiamoli, e abbiamo sempre anche il nostro dottor Gargiulo che può intervenire, esatto, perché volentieri. È un po' l'anello. Ah, tra l'altro abbiamo anche un terzo di ospite che ci ha raggiunto, che è il dottor Paolo Vasile, medico fiscale IMSS e coordinatore nazionale della UIL Medici Fiscali IMSS. Buongiorno dottor Vasile, anche a lei. Buongiorno. Ci sente, eccoci qua. Ripartiamo però con la nostra Piera, che tra l'altro da maggio mi aveva molto, come dire, caldamente sollecitato a fare una trasmissione su questo tema. Dal primo ottobre nessuna visita fiscale? Nessuna visita fiscale dal primo ottobre, nonostante quella trasmissione del 29 maggio dove il dottor Nori ci promise alcune cose. Mauro Nori è il direttore generale dell'IMSS. Il generale dell'IMSS. Sì. Cose che ci lasciarono anche qualche spiraglio di speranza. Perché le visite furono riprese il 19 giugno e quindi la temporanea sospensione fu praticamente sospesa, cioè nel senso le visite furono riprese. Però dal primo ottobre e furono riprese in una maniera però il numero di 5-6 visite al medico. Ricordiamo poche, esatto, per perché voi. Loro prima ne facevano quante, Piera? 90-100 allora, al mese? Noi facevamo 80-90 visite al mese. Diciamo anche d'ufficio sarebbero quelle richieste dall'istituto e poi improvvisamente il nostro reddito è stato ridotto del 90%, quindi da 90 visite a 5-6 visite al mese, questo nel mese di giugno. No, tra l'altro ricordiamo che quella famosa... Cioè, no, stavo ricordando che quella famosa circolare dell'INPS del 30 aprile fu proprio un fulmine a ciel sereno. Perché, un fulmine perché fu un comunicato intranet, l'INPS informò le sedi periferiche che praticamente sarebbero state sospese le visite d'ufficio e Nori disse proprio temporaneamente. Innanzitutto, quindi stavo dicendo da giugno le visite poi sono state sempre più rarefatte fino a che il primo ottobre, con un'altra nota del direttore, l'INPS le ha sospese definitivamente. Ora, io ci terrei a dire alcune cose, cose riguardo le frasi che disse Nori in quella trasmissione. La sospensione è temporanea, nei primi di giugno verranno rese disponibili nuove procedure per mirare meglio la nostra attività di E invece così non è successo, Piera, abbiamo così capito perfettamente. Adesso sentiremo Vasile che cosa fa. Allora adesso un'azienda che in qualche maniera contesta anche una malattia ad un dipendente, ci arriveremo fra qualche istante. Piera ci saluta? No, Piera rimane? Magari se vuole la possiamo tenere ancora per un po' e poi sentiamo anche Paolo Vasile. Vogliamo sentire anche qualche ascoltatore perché c'è Mara dall'Aquila che sul tema... Dottor Gargiulo, se lei potesse leggere tutti i messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori che ci raccontano come si aiutano per affrontare i primi freddi e quindi per rimanere sani e non prendersi le malattie stagionali, lei scriverebbe un libretto. Facciamolo in una puntata successiva, siamo qua. Dottor Gargiulo, ci viene qua. E facciamo anche il libretto. Facciamo il libretto. Ecco, provare allora. Allora, vediamo Mara che ci chiama dall'Aquila. Mara, buongiorno. Buongiorno a tutti, salve, sono Mara, chiamo dall'Aquila. Io volevo dire che secondo me le visite fiscali non sono assolutamente un costo per l'INPS, ma anzi nel momento in cui il lavoratore non viene trovato a domicilio, l'INPS, per motivi effettivamente che il lavoratore tra virgolette trovasi a passeggio, trovasi in giro, eccetera, non si trova né al pronto soccorso né dal medico di base né a una visita specialistica, quindi risulta ingiustificato, l'INPS dovrebbe applicare tali sanzioni per cui le visite non viene ripagata una di visita fiscale, ma ne vengono ripagate almeno tre. Ecco, ora il discorso qual è? Che molto spesso applicare queste sanzioni, applicare tutto quanto l'iter per fare le sanzioni al lavoratore e recuperare questi soldi non viene effettuato. Tantissime volte l'INPS può fare anche un recupero perché ci sono gli interventi estetici, interventi anche piccoli interventi, quelle della correzione della mia. È una tecnica, Mara. L'INPS potrebbe recuperare. Ha ragione, Mara. Evidentemente, come dire, l'INPS ha preferito evitare la strada dei contenziosi ripetuti e abbattere questo costo che appunto ha sostenuto fino a questo momento eliminando così. Chiediamo al dottor Vasile che ne pensa. Dottor Vasile, allora adesso tra l'altro se un'azienda vuole andare a fare un controllo appunto ad un lavoratore di cui ha il sospetto che non sia in malattia, come si deve comportare? Chi manda? Deborah, vorrei prima ancora di rispondere a questo fare una piccola puntualizzazione. Hai parlato di risparmi per l'INPS di 500 milioni sulle visite fiscali, ma non è così. Perché i 500 milioni sono solo esclusivamente da parte di tutto l'ente. Il risparmio che fa l'Inps sulle visite fiscali attualmente è di 50 milioni, perché nel capitolato di spesa dell'Inps per le visite fiscali sono 50 milioni. Ah. Di queste 50 milioni l'Inps ne recupera oltre 20. Bene. Con quello che ha detto la precedente collega e il precedente sì. ascoltatore. Sì. Quindi in effetti il risparmio teorico per l'Inps è neanche di 30 milioni. Buttali via. Poi ti dirò altro più tardi sul discorso del risparmio, sull'assenteismo e quanto viene a costare l'indennità. Ora, ma la domanda è questa, la ribadisco, ecco, un'azienda può chiamare un medico fiscale e pagarlo di tasca propria per andare a controllare se un dipendente ha preso una malattia? No. Il datore di lavoro è obbligato, tra parentesi, se l'Inps effettua le visite fiscali solo ai lavoratori dipendenti privati, non a quelli pubblici. Certo. E per cui quelli pubblici sono di pertinenza delle ASL. Il lavoratore, se si mette in malattia, deve far presentare al medico di famiglia un certificato online. Per cui quel certificato online poi viene lavorato normalmente dall'Inps. Se vi è una richiesta della ditta, sempre online, la ditta deve inviare una richiesta di visita azienda. Per cui è sempre tramite l'Inps che l'azienda potrà effettuare la visita fiscale. Però tutto parte, dottor Gargiulo, da lei, diciamo la verità. Parte tutto dal dottor Gargiulo. Ma le capita di fare qualche certificato con il quale non è molto d'accordo, dottor Gargiulo? No, in realtà no, perché la certificazione è soltanto l'attestazione di una diagnosi, quindi è evidente che ci deve essere a monte la mia diagnosi. È chiaro che poi su quello che riguarda la prognosi, cioè i giorni di malattia, lì è abbastanza soggettivo, ogni medico ha una sua valutazione che si basa anche sulla conoscenza del paziente. Paziente che ha una patologia cronica e si riacutizza, io so che gli dovrò dare sicuramente un giorno in più, ad esempio un bronchitico che ha un'influenza, dovrò sicuramente tenerlo un giorno in più a riposo, ma questo è una questione che noi sappiamo conoscendo i nostri pazienti. Ecco, conoscendo i vostri pazienti, dottor Gargiulo, sottolineo questo, perché ci sono delle malattie che hanno dei sintomi chiari, evidenti. Esatto, no? Arriva uno con la febbre, naso che cola, la tosse e il dottor Gargiulo fa la sua diagnosi e la prognosi. Però può arrivare anche quello, il mal di schiena o il mal di testa oppure la stanchezza. In questi casi si va sulla fiducia? Assolutamente sì, nel senso che per quello che sono i disturbi non obiettivabili, il mal di testa è l'esempio classico e lì bisogna veramente avere una conoscenza della persona che abbiamo di fronte. E io so che se un mio paziente per 3 lunedì consecutivi mi lamenta un mal di testa, probabilmente qualche campanellino d'allarme scatta e magari 2 chiacchiere per spiegargli come funziona realmente la malattia gliele faccio. Però io mi rendo anche conto che esistono donne che ad esempio nel periodo mestruale hanno dei disturbi talmente fastidiosi che rimangono immobilizzate o bloccate, bloccate a letto, e lì è chiaro che non possiamo fare una visita per obiettivare il tutto, ma ci dobbiamo fidare molto di quello che ci viene. Il dottor Gargiulo ha toccato un tema che noi riprenderemo nel corso della trasmissione con la dottoressa Piccini, vero Deborah? E c'è queste continue assenze dal lavoro per i colleghi, per chi si pensa che sia malato di fannullite. In realtà quando ci ammaliamo ripetutamente, questo potrebbe essere un'indicazione. Siamo ammalati, ma è il nostro lavoro che ci fa ammalare. E quindi leggeremo anche questo con un approccio psicologico tra poco. Quindi se vi ritrovate in questa condizione, approfittatene, chiamateci. E poi 800 24 00 24 per continuare i vostri interventi in diretta. Leggo, prima della pausa per i suggerimenti per chi è in viaggio, il messaggio di Umberto che dice: per resistere a batteri, virus, funghi, addirittura ed altro, il suggerimento suo è quello di bere, e qua mi dovete dire che cos'è, un cucchiaino o un piccolo sorso ogni giorno di argento ionico, l'antibatterico naturale più potente che esista, che io pensavo fosse il miele. Pensate un po'. Cuore e denari. Eccoci qua. Che cosa è successo a Mario da Treviso? Allora, nel 78 lavorava in banca. Una mattina, stavo malissimo, ci scrive, ma mia mamma mi ha fatto ammazzare. Sbrandato, ecco. Dottor Gargiulo, la traduzione facile. L'ha buttato giù dal letto, eccolo là. È spedito al lavoro. 35 chilometri da casa. Si vedeva che stavo male, il segretario mi ha fatto misurare la febbre, 39, mi ha cacciato con male parole dicendo che veniva ad appestare i colleghi, da allora mi vaccino ogni anno, ho anche la colonna sonora per l'occasione. Ci saluta Mario. Sì, infatti. No, perché a voi non è mai capitato che soprattutto non quando ci sono più le mamme di una volta. Quando andavamo a scuola, mia mamma pure è successo e altro che con le mie successo a tutti. Eccoci qua. Franco, buongiorno dalla provincia di Forlì Cesena. Hanno sbrandato anche lei per mandarla al lavoro? No, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io voglio raccontare un aneddoto, ma prima una premessa veloce. Sì. Premetto che c'è una purtroppo una forte benevolenza e leggerezza con la quale i medici di base prescrivono la malattia. Ed eccolo qua, Gargiullo, abbiamo chiamato subito in causa. Dei dottor Gargiullo ce ne sono pochi. Ecco. Ce n'è uno e ce l'abbiamo noi. Giustamente non si prendono responsabilità. Dovrebbe servire da esempio per tutti gli altri. Senta, dottor Gargiullo, non è che Franco è suo... Quando arrivano è un paziente, un cugino? È un mio assistito, naturalmente. Un cugino o... Va bene. No, Franco. Franco, no, ci racconti cosa le è successo, perché veramente questo caso farà indispettire molti. A me è capitato che una mia dipendente, io sono albergatore, è andata in malattia 2 settimane. Al terzo giorno io sono andato a fare spesa in un supermercato e fra l'altro con una sua collega che era venuta ad aiutarmi, e l'abbiamo vista nel supermercato col carrello pieno che faceva spesa. Quando ci ha visto lei è scappata di corsa, forse pensava che non ci avesse, che noi non l'avessimo vista, è scappata, siamo stati lì un quarto d'ora, non è ritornata. Noi abbiamo preso un biglietto, abbiamo scritto: ah, ciao Tiziana, bene, abbiamo visto che ti sei rimessa, vorrà dire che domani tornerai a lavorare. Gliel'abbiamo lasciato sul carrello. Ecco. Morale, il giorno dopo lei era a lavorare. Io sono andato dal medico di base, che fra l'altro lo conosco, e gli ho detto: caro dottore, ecco, questo è un esempio, e lui mi fa: ah, ma Franco, come faccio io? Vengono qui, hanno dei problemi. Esatto. Ma dottor Gargiullo, grazie Franco. Come faccio io? E lei cosa risponderebbe? In effetti il rapporto fiduciario... che però qua 2 settimane, anche questa qua, vabbè. Allora, ecco qua. Dobbiamo La marchigiana dalla coscia lunga è rigida, dica sì, la verità. Sì, io su queste cose qua sono intransigente. No, ma ha ragione, perché poi in realtà sono un danno per la collettività e per tutti. Però non bisogna essere così drastici, così salomonici. Non è che possiamo pensare soltanto bianco e nero, ci esistono realmente delle sfumature di grigio ed esistono delle situazioni in cui a volte un giorno di malattia in più può consentire a una persona di recuperare magari una situazione lavorativa disagevole, un momento difficile all'interno della sua azienda. Insomma, parliamoci chiaro, tanta conoscenza che noi abbiamo del paziente a volte ci porta non a essere indulgenti, però sicuramente a essere più attenti a esigenze che non sono immediatamente verificabili. Certo. È un dato di fatto. Dottor Vasile, certo che questa dipendente qua una bella visita di un medico fiscale l'avrebbe meritata, Sicuramente. Il datore avrebbe dovuto inviare praticamente la richiesta per effettuare la visita, e questo è proprio uno dei casi e uno dei motivi per cui sarebbero necessarie le visite di controllo fatte in ufficio, non solo da parte del datore. Ma quando il medico fiscale, almeno in passato, perché adesso abbiamo capito che non succederà più, appunto, pescava il malato immaginario, qual è appunto la procedura che doveva essere seguita per denunciare questa situazione al datore di lavoro? No, noi non denunciamo al datore di lavoro, noi praticamente mettiamo sul verbale che abbiamo, prima era un verbale cartaceo, ora è un verbale elettronico con i notebook che ci hanno dato, facciamo la nostra visita, facciamo la nostra anamnesi, noi l'esame obiettivo, vediamo esattamente quali sono i problemi, la prognosi che ha dato il medico curante, se eventualmente è una discrepanza tra la prognosi del medico curante e la nostra, che è dovuta solo esclusivamente da un fatto, mentre la prognosi del medico curante è data da una prognosi obiettivabile o soggettivabile che vede all'inizio della malattia e quindi nella fase acuta, noi altri possibilmente ci andiamo in una fase in cui già sta scemando un po', certo. A scemare. Quindi noi altri facciamo un tipo di attività più medico-legale che da un punto di vista della medicina generale. Senta, dottor Vasile, noi adesso dobbiamo salutarvi, nella seconda parte della trasmissione ci occuperemo di altro, abbiamo ridato voce alla vostra protesta, alla vostra contestazione, vi aspettate che l'INPS vi richiami? perché oggi non sono potuti intervenire nella nostra trasmissione, ma che cosa vi aspettate? Non sia presente, perché avrei voluto semplicemente chiedere: ha intenzione l'INPS di riattivare da gennaio le visite d'ufficio? Eccole là. E se sì, è già presente nel capitolo di bilancio relativo alla spesa? Bene, e allora queste... A quanto ammonta la somma inserita? Questo è quello che, a cui avrei avuto piacere che Nori ci... Bene, allora forse non sono voluti venire proprio perché non avevano delle risposte a queste domande, ma noi gliele giriamo da Cuore Denari. Grazie dottor Basile, grazie a Piera da Ascoli Piceno. Adesso che facciamo, Nicoletta? Che teniamo il dottor Gargiulo. Volentieri. E poi? E dobbiamo salutarci. Cuore e Denari. Siamo finalmente, il caso di dire, tornate. Sì, eccoci qua. 800 24 00 24. Mi ammalo e mi metto in malattia? E poi che cosa faccio? Oppure faccio arrabbiare i colleghi perché sto a casa qualche giorno? Oppure tengo duro e cerco di scrollarmi l'influenza di dosso. C'è anche una terza opportunità, dottor Gargiulo, quella che ci suggeriscono molti ascoltatori: cerco di ammalarmi di meno. E ci sono tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, e invitiamo anche chi non l'ha fatto a continuare a provare a contattarci al nostro numero verde oppure sul nostro profilo Facebook e Twitter. Quali sono i rimedi che utilizzate per tenere un po' le malattie da raffreddamento lontane? Abbiamo Luciano che ci chiama da Brescia. Buongiorno Luciano, benvenuto. Sì, buongiorno, sono Luciano. Innanzitutto saluto Debra, Nicoletta e il dottor Gargiulo. Bravo, giornata. Grazie anche a lei. Si buona è ricordato giornata. Tutti i nomi, hai visto? Grazie, sì, beh, sono abbastanza un cliente vostro affezionato da tanti anni. Allora, la mia ricetta, io premetto che... la mia ricetta quotidiana durante l'anno è 2 cucchiai di polline, diciamo, da caffè, con un cucchiaio di limone e altrettanto di miele, mentre invece in inverno, che adesso ho già cominciato, un bicchierone di spremuta d'arancia fresca con sempre 2 cucchiaini di polline e un cucchiaio di miele, che per me è ottima, è anche un buon energetico. E oltre a quello, io direi anche la mia impressione: io premetto che faccio l'artigiano e frequento parecchie case. Sì. La gente oggi in casa ha troppo caldo. La gente è in casa troppo caldo. Quindi sono d'accordo con lei. L'ambiente malsano. Dottor Gargiulo, il caldo troppo. Ecco, e invece ci ha raggiunto poi il dottor Temporin, che sicuramente avrà prestato attenzione alla ricetta del nostro ascoltatore per commentarla. Andiamo al caldo. Replicata, dottor... peraltro, da molti altri che ci scrivono, che suggeriscono il polline fresco abbinato al miele. Dottor Gargiulo, andiamo allora, al caldo. Parliamo del caldo. È vero, effettivamente noi in casa abbiamo troppo caldo e abbiamo un eccessivo sbalzo termico quando usciamo all'aperto, quindi non riusciamo a fare a tempo a coprirci. Come si chiamano queste malattie? Malattie da raffreddamento. Il raffreddamento del corpo, il raffreddamento soprattutto del sistema di difesa meccanico dei cilia presente all'interno dei bronchi, è chiaro che rende molto più vulnerabile a virus e batteri. Ridurre la temperatura in casa e magari invece di stare in maniche di camicia stare con il classico maglioncino di lana significa poi uscire in un ambiente che è più simile a quello domestico, e questo ci evita qualche complicanza, qualche difficoltà. Dottor Temporin, intanto la salutiamo, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medica di Altavilla Vicentina. Wow, ce l'ho fatta. Dottor Temporin, lei ha sentito tutto la ricetta del nostro ascoltatore? Relativa al polline d'api, sì. Sì, allora lei ci darà anche altre indicazioni, vero? Oltre al polline. Quindi invitiamo i nostri ascoltatori a rimanere in contatto con noi e a continuare a chiamarci all'800 24 00 24. Salva Danaio. Un'ingiustizia che Fantozzi non riuscì a sopportare, tanto che per la prima volta in vita sua si finse malato e si mise in mutua. Il controllo! Presto! Non aprire! Ecco, per non metterci mutua, dottor Temporin, la ricetta del nostro ascoltatore è corretta? Vuole aggiungere qualcosa? Allora, la ricetta del nostro radioascoltatore è corretta, però io utilizzerei dei rimedi più specifici per quanto riguarda il rinforzo del sistema immunitario. Sì. In quanto il polline è sicuramente un ottimo integratore, è ricchissimo di selenio, una buona fonte di vitamina C, sì, ma abbiamo dei rimedi molto specifici proprio che ci aiutano a prevenire questi raffreddamenti e queste influenze stagionali. Proviamo a raccontarli così noi prendiamo appunti. Mm. Sì, allora, il primo rimedio che consiglio è sicuramente il lapacio, detto anche pau d'arco, il cui nome originale è tabebuia, sì, il quale ha spiccate proprietà antinfettive, agisce soprattutto sia nelle infezioni virali ma anche d'aiuto nelle infezioni batteriche e micotiche, si trova in gocce ed è utile l'assunzione anche 3 volte al giorno durante il periodo invernale. Perfetto, lo possono prendere anche i bambini questo, ripetiamo, lapacio, che nome, lapacio, sembra una cosa un po' indiana. Anche i bambini, sì, dottor Temporin? Possono ovviamente assumerlo anche i bambini, però sono di solito questo rimedio si trova in soluzione idroalcolica, quindi meglio di no. Bene che si consultino con il loro pediatra. Mm-hmm. Ok, dopo il lapacio che cosa mettiamo? Dopo il lapacio io consiglierei il noni. Il noni, il cui succo del frutto di questa pianta ha spiccate proprietà sia antiossidanti, quindi ci aiuta anche a dare energia già dalla mattina, soprattutto nel periodo autunnale, ma è un ottimo ovviamente stimolante del sistema immunitario. Ecco, ma dottore, questi prodotti li troviamo in farmacia o dobbiamo andare in qualche località esotica per reperirli? No, che battuto. Due prodotti che sono un attimo più ricercati, ma li trova tranquillamente in qualsiasi posto. Ecco, non sa perché? Perché io mi sto documentando solo di recente su questi temi e dopo aver come dire, avuto il le prima le bacche di goji, adesso con tutto questo sono un attimo un po' impreparata, però insomma. Quindi la pace noni, dottor Temporin, lei mi aveva promesso che ci avrebbe preparato anche una tisanina. Eccola là. Perché sto convertendo Deborah alle tisane. Sto facendo questa campagna. Io sono più da caffè, quindi. Ecco, allora, ecco, gli ingredienti, poi mettiamo la ricetta per bene sulla nostra pagina di Cuore Denari. Che cosa ci fa, con quali ingredienti ci fa preparare la nostra tisana? Sì, allora, per Deborah tutti ingredienti italiani, quindi rosa canina. La stoccatina, ecco, la rosa canina, poi? Poi la figlia tomentosa, i fiori e le brattee, i fiori di sambuco e ultimo oleocalipto come effetto balsamico. Bene, poi dopo devo cambiare casa perché se entrano tutte queste tisane devo uscire io praticamente. Ma noi la convinceremo con la ricetta del dottor Temporin. Grazie dottor Temporin. Grazie molte comunque naturalmente per i suoi suggerimenti molto utili. Peraltro ci mettiamo insieme anche quello che fa Laura da Como, Nicoletta. Sì. Una libera professionista per riuscire ad essere sempre in forma, quindi attivissima, prende il magnesio per rilassarsi, la spirulina che pure non conoscevo, ce l'ha indicata qualche giorno fa Giovanni Storti. La sera olio 31 nel profumatore, poi minestre tutte le sere con cipolla cotta e verdure di stagione. Faccio anche sport anche se non sono totalmente in forma, poi sembra che sono super carica. Sto esagerando, dottor Gargiulo? Che ne pensa? Insomma, forse l'adrenalina mille ha la nostra amica da Como. Però se riesce a trovare il tempo per far tutto e riesce a sistemare tutte queste cose, perché no? Non male sicuramente non fanno. Ecco, che non diventi però una fissazione, tra virgolette, cioè noi dobbiamo curare la nostra salute e tenercela da conto, ma non dobbiamo diventare una bella carbonara anche una sera, se la può regalare la nostra amica. Eccola là. Brava. Nicoletta, hai voglia quello che è antibiotico naturale? Noi abbiamo anticipato in trasmissione che avremmo parlato delle persone che ripetutamente si mettono in malattia. Lo sappiamo che le assenze pesano sui colleghi, chissà quante storie avrete da raccontare, potete ancora farlo chiamando il nostro numero verde superando la barriera rosa. Spesso però quando un collega è recidivo, si ammala continuamente e soprattutto il lavoro cade su di noi, è naturale indispettirsi, si pensa che più che un malanno faccia un po' il furbetto. In realtà c'è anche l'altro lato della medaglia. Ne vogliamo parlare con la dottoressa Monica Piccinini, che è qua con Piccinni, che è con noi in linea. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Buongiorno. Insomma, è vero che a volte ci ammaliamo di più perché è il nostro lavoro che ci fa ammalare, il rapporto che abbiamo con questo compagno quotidiano, i superiori, i colleghi, insomma lo stress, lo sappiamo bene, abbassa le difese immunitarie. Magari anche il tipo di lavoro che non ci corrisponde pienamente, no? Una mansione che non riteniamo sia adeguata alla nostra propensione, alle nostre caratteristiche. Allora, sì, sono assolutamente d'accordo. Allora, tenete conto che, come probabilmente è già stato anche un po' già detto durante la puntata, il lavoro, diciamo che viene catalogato al giorno d'oggi, ma un po' da sempre, come una delle cause principali di stress. E lo stress è un fenomeno che colpisce comunque tantissime persone. Lo stress di per sé non è però un fenomeno negativo, no? Non ha una connotazione solo negativa, anzi, può essere anche molto positivo. Ci tira anche su, certo. Esatto, però bisogna probabilmente mantenerlo su dei livelli che siano salutari e stimolanti. Allora, sicuramente fonti di stress lavorative possono essere diverse, come già stavate accennando un pochino voi, problematiche naturalmente proprio di gestione del lavoro, no? Sì. Quindi carichi di lavoro. Poi ci sono tante storie individuali, ma esatto. Dottoressa Piccini, alla fine noi continuamente ci ammaliamo, andiamo dal dottor Gargiulo e denunciamo al nostro medico di famiglia questa difficoltà, questa stanchezza profonda, esatto. Questa ansia, a volte hanno proprio, ci sono delle somatizzazioni, esatto, quindi sintomi un po' subdoli, ecco. Sì, perché lo stress dà proprio vita, proprio perché è, cioè, come dire, è in grado di produrre anche delle alterazioni proprio della funzionalità immunitaria. Ecco, ci aiuta, dottoressa Piccini, a individuare quali sono i segnali che possiamo leggere facendoci una sorta di autodiagnosi, non per curarci da sole, ma per chiedere aiuto, o che possiamo vedere magari in un collega. Infatti, perché magari uno è a caccia, in base ad una determinata sintomatologia di una malattia, e cerca di dare un nome a tutti questi sintomi che ha, e magari è proprio la condizione sul lavoro che determina questi problemi, certo. E non lo sa. Allora, sicuramente ci sono anche, come dire, vari tipi di categorie di sintomi, no? Sicuramente dal punto di vista comportamentale possiamo vedere o visualizzare persone che magari, come dire, hanno un eccesso, per esempio, di impazienza, no? Disturbi del comportamento, diciamo, sì. Un pochino. Quindi un'impulsività nelle reazioni, per esempio, interpersonali, quindi nella relazione con i colleghi, piuttosto che anche sulle richieste dei vari capi, dei responsabili. Dal punto di vista psicologico sicuramente possono subentrare difficoltà di concentrazione e di memoria, quindi sì. La persona fatica proprio a stare concentrato e a rispondere, no, alle aspettative, quindi alle richieste della struttura, comunque dell'azienda, addirittura disturbi alimentari, nel senso che sul lavoro spesso si fa ricorso, no, a classiche macchinette dove si va per in teoria ingurgitare qualcosa che in quel momento possa servire come riempimento di un vuoto, no, che in quel momento sentiamo, o di un disagio, nervosismo, irritabilità, addirittura un umore molto oscillante, quindi variazioni di umore da un momento all'altro della giornata che possono cambiare in funzione di questa stanchezza. In più, a livello invece fisico, psicosomatico, come dicevi tu prima, Nicoletta, si possono addirittura sviluppare problemi di tipo gastroenterico, no? Quindi problemi legati naturalmente a dover recarsi in bagno diverse volte, oppure avere disturbi allo stomaco, addirittura cardiocircolatori o cardiovascolari, o principalmente del sonno. Dottor Gargiulo, ma se una persona viene da lei con tutti questi sintomi, lei come medico di famiglia, esatto, che cosa può fare? Intanto cercare di aiutarlo se è una situazione temporanea, momentanea, cercare di aiutarlo anche eventualmente con un periodo di allontanamento dal lavoro. Poi è importante anche vedere e valutare se questo ambiente di lavoro non configuri ad esempio una situazione di mobbing, per cui queste persone lamentano dei disturbi che sono legati più a un'azione negativa all'interno dell'ambiente di lavoro, ed esistono dei centri presso gli istituti di medicina legale, sono proprio degli ambulatori certo. A studiare e a valutare. E qua i medici fiscali possono far ben poco, perché naturalmente vanno a valutare la situazione contraria, non quella che c'è all'interno dell'azienda, giustamente. Esatto, esattamente. Quindi col medico fiscale da questo punto di vista rischia di entrare in conflitto con quella che può essere la nostra valutazione. Poi anche lì ci sono comunque, anche all'interno delle ASL, centri dove è possibile fare poi una valutazione di questi eventuali contenziosi. Ecco, questo è importante, importante le informazioni che ci sta dando il dottor Gargiulo, perché spesso, la dottoressa Piccini ce lo può dimostrare, ci sentiamo un po' soli e non sappiamo a chi rivolgerci, invece nel caso... travolti dal senso di colpa, no? Perché riteniamo che non abbiamo, come dire, un po' la dignità anche di lamentarci per certe condizioni di lavoro che non riteniamo appropriate. Ecco, l'invito è, se vi ritrovate in questa situazione, se avete bisogno di aiuto e di parlare con noi, scriveteci una mail a Cuore Denari e ci faremo aiutare dai nostri esperti. Grazie dottoressa Piccini per essere stata con noi. Buona giornata. Continuano gli messaggi. Non sappiamo più dove tenerli oggi, ci scappano di mano e sono tanti. Anche perché agli ultimi ascoltatori noi vorremmo regalare dei libri della libreria di Cuore Denari. Ma soprattutto se lo merita Angela, con quello che prende per curarsi e per prevenire l'influenza. Angela, lei c'ha un coraggio, io la voglio premiare solo per questo. Buongiorno. Buongiorno. No, guardi, comunque è efficacissimo, basta poi mangiare dei chicchi di caffè. Ma ci dica, qual è questa cura? Angela. Bisogna far bollire 7 spicchi d'aglio in un litro d'acqua e farlo ridurre ad un bicchiere e berlo in 3 volte durante la giornata. Bisogna farlo per 3 giorni, al cambio di stagione. Certo, non tutti i giorni. Ma che gusto ha? E dopo va bene per tutto l'anno. Ma scompare un po', poi l'alito come rimane, Angela? Parliamone. No, basta mangiare dei chicchi di caffè, oppure tolga quella parte verde dell'aglio. E toglieremo la parte verde Angela, dell'aglio. Proverà Deborah. Non ce la posso fare. So come... che non è piacevole, però guardi. Vado sul tradizionale. Un libro di cuore o un libro di denari? Cosa vuole? Grazie mille. Un libro di cuore o un libro di denari? Cuore. Ottimo. Denari non ne ho, perciò. Va bene, andiamo sulla dottor Gargiulo. Che dice questa cura di aglio? Questo decotto di aglio. Se decidete di fare questa terapia, avvertitemi che io non verrò in trasmissione da voi. No, allora lei non, professionalmente non deve darci questa risposta. No, perché lui lo sa che quando viene qua lo baciamo. Sì. E quindi avremo un alito impeccabile. Voglio sentire anche una Deborina che ci chiama da Udine. Però deve essere telegrafica perché siamo in chiusura. Deborah, la sua cura anti-influenza. Buongiorno, come accennava Vada. Prima il dottore. Dunque, io prendo e mio marito prendiamo da 6 anni il Noni e lo ordiniamo in Germania e 6 anni non abbiamo più avuto l'influenza. Brava. Allora, viva il Noni, grazie a Deborah da Udine, anche a lei un libro, il dottor Gargiulo, un abbraccio, un bacio senza aglio. Senz'altro senza aglio, e noi naturalmente anche raccogliendo tutte le testimonianze che ci sono arrivate sul tema della visita fiscale, che è veramente molto popolare, e vi risponderemo in privato, non sappiamo che fare, in attesa che questa situazione si sblocchi in un modo definitivo, appunto in una direzione in un'altra. Nicoletta, noi torniamo domani, possiamo preannunciare ai nostri ascoltatori che ci occuperemo anche a Cuore Denari della situazione in Sardegna per capire tutta la rete degli aiuti che si sta mettendo in campo in queste ore per sostenere questa popolazione in questa drammatica condizione. Grazie, buona giornata, a domani. A domani. Cuore e Denari.